Guardi, direttore, un piacere conoscerla, il direttor Cecchi. Per quanto riguarda l'esposizione di imminente apertura a Bologna, Michelangelo è protagonista. Nello specifico, siccome è una collaborazione estesa, di cosa si è occupato? Ma senta, io sono il direttore della Fondazione Casa Buonarroti. La fondazione intanto ha 200 e più disegni, una delle raccolte più importanti del mondo di grafica michelangelesca. Poi abbiamo anche l'archivio Buonarroti con tutte le carte, i documenti di Michelangelo e dei suoi discendenti. Quindi naturalmente questa mostra ha i due aspetti, sono messi in evidenza, cioè sia quello artistico che quello documentario. Quindi ci sono anche delle lettere. Io mi sono occupato molto anche dell'aspetto documentario, perché ritengo che sia fondamentale che il pubblico si accosti a queste carte, che hanno il fascino, hanno la importanza proprio, sono carte di pugno di Michelangelo, insomma. Quindi veramente importante. Il documento non è una cosa per gli addetti ai lavori, è anche per il pubblico. Quindi accanto a ogni documento c'è una trascrizione, a parte si scrive benissimo Michelangelo e si legge anche di solito bene, anche se ci sono delle abbreviazioni, veramente qualche cosa un po' che deve essere sistemata, però si leggono bene. Tra l'altro nell'archivio Buonarroti noi abbiamo una trentina di lettere scritte da Michelangelo a fratello Buonarroto mentre lui è a Bologna. Quindi è importante, perché Bologna è documentatissima, almeno nel secondo soggiorno, che è quello proprio Michelangelo, i quasi 2 anni che lavora alla statua di Giulio II in bronzo. Poi ha fatto una brutta fine, è stata distrutta successivamente dopo pochi anni, e quindi insomma è diventata poi una colubrina nella fonderia del duca Alfonso I d'Este. Come arriva Michelangelo a Bologna? Michelangelo dunque 2 volte è venuto qui. La prima volta è un giovane di 19 anni che è scappato da Firenze precedendo di poco i medici. Vengono cacciati nel 1494. Piero il Fato, l'imbelle figlio di Lorenzo il Magnifico, ovviamente consegna le fortezze di Firenze ai francesi, e i fiorentini non ci stanno e lo estromettono con la famiglia, insomma con i fratelli eccetera. La seconda volta invece lui viene chiamato dal pontefice, cioè Giulio II ha conquistato Bologna e a questo punto vuole far qualcosa che metta in evidenza la sua supremazia su Bologna. Quindi diventa questa presenza sulla facciata di San Petronio, di questa statua bronzea con la mano benedicente, ma anche con la spada, minaccia anche di Giulio II, un papa castighi, sì, di guerra, insomma. Sì, infatti no, Michelangelo si deve far perdonare, perché dopo la Pasqua del 1506 è scappato da Roma, anche giustamente sdegnato, perché era stato trattato dal Papa veramente come... Non bene. No. Percorso in mostra che troviamo a Palazzo Fava? Ma devo dire, intanto si inizia con una sezione relativa alle fonti, diciamo, per questo giovane. E le fonti sono che a Bologna c'è Jacopo della Quercia, naturalmente, che è un maestro importantissimo. Lui risentirà molto dell'influsso di Jacopo della Quercia. Lui veniva comunque da Firenze, era stato allievo di Bertoldo, era stato l'ultimo, diciamo, collaboratore, l'ultimo seguace di Donatello. Quindi Donatello è un po' tra grandi, no? C'è come un passaggio, sì, di testimone da Donatello a Michelangelo. Del resto la Madonna della Scala che abbiamo qui in mostra, portata da una delle due culture capolavori giovanili di Casa Buonarroti, è un esempio di schiacciato donatelliano e proprio si rifà a queste, giusto, Madonne, appunto a questi bassi rilievi, possiamo dire, Donatello. Per quanto riguarda quello che resta a Bologna, ecco, oltre a quello che vediamo, sì, in esposizione. Infatti no, qui abbiamo delle copie naturalmente, certo, in gesso, patinate, insomma, vogliono richiamare le 3 statuette che lui riesce a ottenere tramite questo nobile bolognese che lo prende in casa con sé per un anno, insomma. E quindi naturalmente gli originali sono qui, sono all'Arca di San Domenico, anzi l'invito di questa mostra è andate Meraviglia. A San Domenico, andate a vedervi gli originali, insomma. E certo, in conclusione, l'espansione per quanto riguarda collaborazioni, diciamo, di artisti con comparazioni che troviamo a fianco di Michelangelo? Ma lui, devo dire, ha chiamato per la fusione dei collaboratori che sono venuti da Firenze. Per esempio c'è un certo Bernardino da Milano, che era un maestro fonditore di artiglierie e di opere d'arte in bronzo, no? Quindi per aiutarlo. Però lui dice: non è il mio mestiere, e quindi ci sono dei problemi. Questa fusione all'inizio non va bene. Lui dice addirittura in una lettera al fratello Buonarroto, dice: è andata meglio di quanto pensassi, è andata male, però poteva andare peggio. Lui è abbastanza, via via che si scopre questa statua, diciamo, si rende conto che insomma sì, c'è da lavorarci ancora, però poteva andare peggio. Quindi c'è questa considerazione che non è proprio del mestiere. No, appunto, lui non era, lo ha sempre detto, anche se intendiamoci, già si era cimentato a Firenze su incarico della Repubblica del confaloniere Soderini in una statua in bronzo per un maresciallo di Francia, Pierre de Rohan, maresciallo di Gé, che doveva andare in Francia, poi ci andrà, ma solamente dopo, quando il maresciallo sarà caduto in disgrazia, quindi sarà destinato al tesoriere del re di Francia, Florimond Robertet. Quindi lui si era già cimentato in questa cosa, era rimasta però non finita, e sarà finita solamente nel 1508, quando ormai insomma cose sono cambiate. Io la ringrazio tanto, direttore, le auguro una buona giornata. Grazie. Grazie a lei.